I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Pensare e proporre di abolire il sistema carcerario ci impone di prendere molto seriamente l'anticapitalismo, l'antirazzismo e l'antisessismo. Angela Davis, conferenza Donne e carcere, Bilbao, febbraio 2016. Ciao a tutte e ciao a tutti. Abbiamo aperto la trasmissione con queste righe perché sono delle parole che Angela Davis ha detto appunto alla conferenza Donne Carcere a Bilbao questo febbraio scorso. Immagino che sappiate tutti e tutte chi è Angela Davis. Nata il 26 gennaio del 44 a Birmingham in Alabama, praticamente militante del Partito Comunista dal 1968 e in seguito del Black Panther Party, uscì dal Black Panther Party quando l'organizzazione lo definì incompatibile con l'essere comunista o comunque col Partito Comunista. Lei scelse il Partito Comunista, poi uscita anche dal Partito Comunista, non è più nel Partito Comunista ma si definisce ancora comunista, dice: io non sono più iscritta al Partito Comunista ma sono comunista. Imprigionata per terrorismo a causa soprattutto dei suoi rapporti con George Jackson, è stata liberata, c'è stata una grossa campagna internazionale di mobilitazione. Oggi è docente universitaria e sta nel movimento Black Lives Matter, perdonatemi la pronuncia, e praticamente è impegnata nello sviscerare, studiare, nel chiarire, nel portare nella militanza le interconnessioni tra genere, razza e classe, e in particolare si è occupata, ma questa è una delle sue dei suoi ambiti privilegiati, si è occupata di carcere e si è occupata di sistema carcerario e di sistema militare, perché ritiene giustamente, e noi condividiamo assolutamente questa posizione, che siano interconnessi e legati e che comunque non sia possibile parlare di abolizione di carcere e parlare di sistema militare e militare economico, perché praticamente poi vedremo che cosa pensa Angela Davis di questo, senza parlare di abolizione, di uscire dal capitalismo, e quindi senza una pratica anticapitalista, antisessista e antirazzista. Allora, febbraio di quest'anno, insomma febbraio scorso, Angela Davis è stata a Bilbao, appunto ha fatto questo incontro su donne carcere in un contesto chiamato dalla sinistra indipendentista basca, a cui ha partecipato anche il giornale Gara, che ed è proprio il giornale Gara che l'ha definita 3 volte ribelle, donna, nera e comunista. Infatti è proprio così come l'ha presentata. È stata una conferenza particolarmente importante, particolarmente pregnante, perché oltretutto nei Paesi Baschi c'è il contesto dei prigionieri e le prigioniere politiche, e quindi era particolarmente pregnante il discorso che lei ha fatto. Dopodiché il secondo incontro è stato qui a Roma, lunedì 14, ed è stato a Roma 3, all'Università di Roma 3. Ed era dedicato, cioè praticamente lei ha fatto una lectio magistralis sul suprematismo bianco. Dopodiché a Bologna, all'Alma Mater, c'è stato l'incontro il 15 marzo, cioè proprio ieri, con gli studenti che hanno contestato Pane Bianco sulla questione della guerra, sulla questione della Libia, praticamente perché Pane Bianco ha dimostrato di essere assolutamente un guerrafondaio con gli articoli che ha scritto. E poi oggi, il 16 marzo, ha fatto la lectio magistralis sullo stesso argomento qui di Roma, cioè sul suprematismo bianco. A questo punto noi vorremmo dare delle opinioni, delle sensazioni rispetto a quello che hanno provato e hanno sentito le compagne che sono andate qui a Roma ad ascoltarla, qui a Roma 3, e quindi passiamo il microfono a chi c'è stata. Sì, siamo andate appunto lunedì a sentire Angela Davis, come moltissime altre compagne e moltissimi altri compagni, e è stato sicuramente molto interessante ascoltare Angela Davis, che tutti appunto conosciamo e apprezziamo per il contributo che ha dato alla lotta chiaramente in America, ma anche dappertutto, insomma, come sempre. Certo, ha detto delle cose molto interessanti, il suo intervento di mezz'ora sul suprematismo bianco, che chiaramente ha, diciamo, ripercorso anche tutti i movimenti insurrezionali e di protesta che ci sono stati recentemente, no? Con questa riesplosione della questione razziale, è stato interessante da ascoltare. Ha anche precisato, ad esempio, il ruolo, no, che ha avuto un presidente nero come Obama, diciamo, nell'assopire l'attenzione rispetto alla questione razziale, dando questa idea, no, che questa fosse appunto superata, perché con l'elezione di un presidente nero, insomma, cosa si può volere di più per la parità tra le razze, no? Invece appunto ha sottolineato come questo sia stato in qualche maniera anche molto pericoloso, perché appunto ha assopito l'attenzione, e poi ci si è ritrovati con le barbarie della polizia, che a quel punto hanno avuto un po' la mano libera. E lo stesso discorso ha fatto un po' anche con Hillary Clinton, insomma, no? Dal punto di vista invece femminista, che lo stesso ruolo regressivo e oppressivo lo hanno le donne che poi arrivano a partecipare alle strutture di potere e in realtà si pongono semplicemente come nuovi oppressori di tutte le altre donne. No? Ha anche diciamo accennato alla questione che adesso effettivamente molti afroamericani, molti neri in realtà siedono nei consigli di amministrazione di grosse corporation, no? Quelle stesse corporation che poi chiaramente hanno un ruolo imperialista e nei confronti di ormai di tutto il mondo, insomma, no? Che hanno dei prodotti, dei fatturati che superano di gran lunga i prodotti interni lordi di molti paesi, tra cui anche il nostro. E appunto che questo, però lei ha sottolineato, insomma, che questi neri che siedono dentro ai consigli di amministrazione delle corporation poi non diventano i principali nemici, no, ma sono quelli che sono arrivati, diciamo, prima e che invece hanno chiuso la porta a tutti gli altri. Ha toccato moltissimi temi, interessante è stato soprattutto, perché su questo si è dilungata, sulla questione palestinese, quindi sull'occupazione di Israele, quindi ha denunciato le connivenze e le complicità tra gli Stati Uniti ed Israele, ed anche invece in termini propositivi e positivi sottolineato le interconnessioni che si sono date tra ad esempio il movimento di rivolta di Ferguson e i palestinesi, sia i palestinesi che vivono in America e che hanno partecipato a quelle rivolte, sia invece l'appoggio che è stato dato dai neri per la questione palestinese, quindi l'ha messa molto al centro, cioè fondamentalmente anche quando ha parlato per esempio del fatto che adesso il razzismo e quindi anche il suprematismo bianco si declina oggi fortemente con l'islamofobia e con facendo l'esempio di Trump ma tantissimi altri, cioè come poi questo il razzismo prenda nella storia, no? Delle declinazioni poi sempre contingenti, ma avendo la stessa radice. Poi ha fatto dei discorsi interessanti, per esempio sulla leadership, dicendo che appunto anche l'orizzontalismo dei movimenti eccetera non significa non aver bisogno di leader, ma lei sottolineava che adesso leader dei movimenti sono anche le donne, sono anche i transessuali, e quindi come poi questa questione della leadership debba essere declinata come l'importante è che ci sia quasi un ricambio della leadership e una pluralità, no? Che è vincente nel momento in cui anche la leadership esprime quella stessa complessità e pluralità dei movimenti. Dopodiché, essendo il tema così ampio, poteva partire un dibattito, diciamo, molto interessante. Sarebbe stato interessante sentire la Davis esporsi un po' di più rispetto al quadro chiaramente molto chiaro e molto vorrei dire condivisibile, anche se non sono proprio nella posizione di, però molto condivisibile, che poi ecco tutte queste potenzialità si sono schiantate sul fatto che era un'iniziativa accademica chiamata da un mondo accademico che ha dimostrato proprio la sua tutta la sua autoreferenzialità e proprio incancrenito, per cui ci siamo dovute esorbire comunque svariati interventi, sono stati forse 6-7, non so, tra giornalisti, baroni vari eccetera, che hanno fondamentalmente depotenziato lo stesso discorso iniziale della Davis, ed è stato un teatrino, cioè peggiore di quanto ci si potesse aspettare, perché tutti quanti siamo andati, diciamo, a sentire la Davis consapevoli di essere in quel consesso là, ma io mai mi sarei aspettata di assistere a degli interventi in cui ogni singolo professore doveva mettersi in mostra dicendo quello che aveva scritto, quando l'aveva scritto, quando aveva incontrato per la prima volta la Davis, che ci aveva fatto insieme alla scuola di Francoforte, uno ha fatto tutto un intervento assurdo su tutta una fotografia per cui la Davis nel 70 e qualcosa si era ritrovata accanto a dei personaggi, è stato veramente imbarazzante proprio, no? Sì, era imbarazzante, e tra l'altro sottolineerei che gli interventi più imbarazzanti sono stati quelli maschili. Non che cioè nel senso le altre due, perché poi erano due donne, che cioè nel senso anche questo, no? Anche l'immaginario, cioè invitare la Davis e far parlare un tavolo quasi esclusivamente di maschi, che assolutamente con il loro testosterone no, devono dimostrare quanta è la loro preparazione, appunto sono autoreferenziali, quindi passano 20 minuti a parlare di loro stessi e poi a fare una domanda a caso, senza motivo, così semplicemente per, appunto, per personalismo, per emergere, no? Perché sennò sarebbero stati schiacciati dalla figura della Davis, ma questo in realtà, un po' parlandone insomma da lunedì con le compagne, e in realtà poi quello che emerge ovviamente, come diceva La compagna, hai, no, un senso di, non so, frustrazione terribile, perché appunto non ti immaginavi che il livello potesse arrivare così tanto in basso, però in realtà questo è quello che in realtà viene poi tradotto nel momento in cui l'Accademia, con, no, con i suoi pilastri, con i suoi paraocchi, con i suoi punti di vista, filtra le informazioni, riesce comunque anche su Angela Davis, che comunque ha un pilastro, ha scritto un sacco di testi molto importanti per le compagne, per i compagni, comunque sono stati dei testi, cioè anche Aboliamo le prigioni, cioè, mi ricordo che il mio primo approccio rispetto alla questione del carcere è stato con quel testo, e quindi, cioè, nel senso, ha praticato, no? Poi delle strade di liberazione che sono per tutte molto importanti, cioè anche, diciamo, un esempio proprio nel senso concreto, no? Cioè, esatto, e però probabilmente il fatto che Roma 3 in questo caso sia proprio l'eccellenza del neoliberismo, della socialdemocrazia, ricordiamo che insomma è proprio l'università beltroniana per eccellenza quella, ha filtrato in questo modo quei contenuti. L'ha depotenziata esatto, in quanto donna nera rivoluzionaria e comunista, che lei l'ha accennato a un certo punto: non mi posso più definire comunista con la C maiuscola perché un partito di riferimento non c'è più, ma continuo a definirmi comunista con la C minuscola. Però è stata depotenziata in quanto figura rivoluzionaria e è stata presentata invece soltanto a livello intellettuale, accademico, al massimo come attivista, questa categoria anche questa un po' mitica ed eterea. E però alla fine, diciamo, credo, no, la frustrazione che io ho provato è anche il fatto che fino a pochi anni fa i movimenti anche all'interno delle università erano abbastanza forti da, primo, diciamo, potersi permettere forse di invitarla proprio in primis, no? Cioè originariamente come movimento universitario, come collettivo studentesco, eccetera, o comunque anche a non avere questa possibilità, ci saremmo presi quell'iniziativa in qualche modo. Cioè al terzo intervento così sconclusionato, così devastante del barone di turno, quello che è successo alla fine dell'iniziativa, perché è successo poi a un certo punto, Marramao per esempio ha rinunciato al suo intervento perché dal pubblico si è detto adesso basta, fate parlare anche noi, però quell'intervento là sarebbe, in altri tempi in cui la politica era più vissuta, era più presente, i rapporti di forza erano altri, esatto. Quindi alla fine è stata un'occasione sprecata, e mi è tornato infatti alla mente l'incontro invece che ci fu un po' di mesi fa, francamente non ricordo se l'anno scorso o giù di lì, con le militanti invece del comitato di difesa di Sekou Odinga, che era appunto un militante del Black Liberation Army, che è incarcerato, forse adesso è stato liberato, sapete che purtroppo sono impreparata, e che sono venuti al Forte Prenestino insieme ad altri militanti, dei rapper militanti, eccetera. Io in quel consesso ho tratto molti più stimoli, perché era una sede, era un incontro politico in cui diciamo sono stati toccati anche dei punti critici, cioè la storia degli ultimi 30 anni negli Stati Uniti anche del movimento, insomma, nero è stata raccontata, e mentre invece l'intervento della Davis, visto il consesso accademico, è stato molto più astratto e generico, no? Cioè ha trattato le questioni così in maniera appunto più accademica, e sinceramente allora io ho tratto più stimoli dall'incontro che ci fu al Forte Prenestino, e non è un caso che adesso forse qualche passaggio ve lo leggiamo, che nel caso della conferenza di Bilbao, o adesso vedremo quello che è uscito dall'incontro con gli studenti a Bologna, però sicuramente la stessa Davis si sarà espressa ed esposta in maniera differente. Sicuramente, per esempio, nell'incontro di Bilbao, no, quando lei ha posto tutto il problema del complesso militare industriale penitenziario, che è in relazione simbiotica col complesso industriale militare, e l'ha poi ha portato questo discorso nello specifico e nel contesto effettivo della situazione basca. Il risultato è stato completamente diverso, tant'è vero che poi è andata anche a visitare una prigione, o meglio, avrebbe voluto visitare una prigione, però poi non gli è stato negato l'accesso. Voleva praticamente visitare il carcere di Logroño, non so se si pronuncia così, e invece chiaramente questa possibilità le è stata negata. Non mi meraviglia affatto la questione, però il rapporto con la militanza effettiva è stato completamente diverso, insomma. A questo proposito, non so se è il caso, che dite, vogliamo mandare la dunque abbiamo un contributo di alcune compagne di Genova. Di questa strada vi diamo, diciamo, una notizia: che all'interno della radio Stella Rossa di Genova è stata aperta una trasmissione femminista. E questa trasmissione femminista è stata fatta, la prima puntata è stata fatta ieri. Il titolo è L'assalto della chimera, il nome proprio della trasmissione, ibridazioni e sguardi femministi. E la puntata di ieri è dedicata per la maggior parte ad Angela Davis, con delle letture dalla sua autobiografia di una rivoluzionaria, che oltretutto nell'incontro famoso a Roma 3 non è stata neanche nominata, cioè una cosa che non esiste, cioè sono state nominate quelle che sono ritenute le sue produzioni più intellettuali, no? Giustamente visto è una filosofa, non è una rivoluzionaria, per Roma 3. Esatto. E quindi adesso vi mandiamo invece questo contributo delle compagne di Genova. Guardate, ve lo lasciamo 10 minuti, perché poi abbiamo anche un collegamento con Luisa Vicinelli per l'iniziativa con Silvia Federici, che faremo domenica al Porto Fluviale. Quindi siamo piene di cose e faremo una sintesi velocissima. Vi mandiamo 10 minuti, aspettate un attimo. No, perché comincia con la musica. E che quindi abbiamo sbagliato qualche cosa. Allora faremo direttamente il collegamento con Luisa e magari proveremo a verificare perché non siamo riusciti a caricarlo correttamente, e lo caricheremo sul nostro blog. And I were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were your trade, would you still find me carrying the pots you made, following behind me? See my love through loneliness, see my love for sorrow. I've given you my holiness, come give me your tomorrow. If you worked your hands in wood, would you still love me? Answer me, baby, yes I would, I'd put you above me. And if you were a miller, had a mill wheel grinding, would you see it written on my face? I'm here for the finding. See my love through lonely. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Lingua bifurcata. Questo testo è stato scritto il 23 agosto del 2011 e ve lo voglio rileggere perché possa essere di riflessione su come ancora oggi non ci sia affatto chiarezza su quello che è avvenuto in Libia e che costituisce un passaggio nodale per la comprensione del presente. Le vicende libiche presentano due grandi novità con cui dobbiamo fare i conti adesso e tanto più in futuro. La novità non è certo il tipo di aggressione e neanche l'intensificarsi delle guerre umanitarie, che ultimamente presentano una scansione temporale sempre più serrata. Da sempre questo sistema usa tutto l'armamentario possibile per rovesciare governi non graditi, compresi colpi di Stato e guerre. Tutti i governi rovesciati presentano una caratteristica in comune: sono, per motivi politici o economici, asimmetrici agli interessi delle multinazionali. E il loro destino non è dovuto al colore politico. Vengono rovesciati indifferentemente Allende e Sankara, Saddam Hussein e Gheddafi. E la strumentalizzazione dei motivi umanitari o dell'autodeterminazione dei popoli da parte delle potenze occidentali è palese, leggibile e ormai dovrebbe essere patrimonio di tutte e di tutti. L'autodeterminazione del Sud Sudan è osannata, quella del popolo basco e del popolo irlandese viene rubricata nel terrorismo. L'uomo bianco ha la lingua bifurcata, dicevano le native e i nativi d'America. Dove stanno le novità? La prima riguarda il fatto che le potenze occidentali, nella necessità e nella smania di impossessarsi di materie prime e nuovi mercati, sottraggono situazioni di privilegio e di rendita ad altre nazioni occidentali, che nella filiera del dominio imperialista vengono percepite e sentite come più deboli. Questa è la guerra in Libia, uno Stato che era sotto la sfera di influenza italiana, con l'ENI in una posizione predominante e privilegiata, passa sotto l'influenza francese e inglese. L'Italia viene espulsa dal suo ruolo e sostituita dall'Inghilterra e dalla Francia. Non si tratta di essere nazionaliste, ma di rendersi conto della fase cannibalesca a cui l'imperialismo è arrivato. Da qui l'inconsistenza di chi parla di una crisi del capitalismo che invece non c'è. Le situazioni di restrizione, di disagio, di povertà, di precarietà nei paesi occidentali e l'oppressione con le rinnovate guerre coloniali nei paesi del terzo mondo vengono scambiate per segnali di una crisi, mentre sono scelte di fondo. È in atto una ridefinizione dei rapporti di forza fra le multinazionali occidentali, di cui i governi sono il braccio esecutivo e la NATO quello militare. Ma l'anomalia tutta italiana è che per la prima volta nella 150ennale storia unitaria un partito di una certa consistenza elettorale, senza giri di parole stiamo parlando del PD, non sposa gli interessi di questo o di quel settore della borghesia italiana, ma interessi di borghesie straniere e nella fattispecie francesi e inglesi. Non era mai successo. Questa è la seconda importante novità. Abbiamo sempre visto che nei paesi del terzo mondo segmenti politici, anche organizzati, si sono prestati e si prestano ad essere strumento di colonizzazione, ma questo avviene per la prima volta anche in un paese europeo. Tutto è cominciato con la riunione sul Panfilo Britannia, che ha dato il via nel nostro paese ad una campagna di denigrazione dei servizi pubblici e di demonizzazione dei lavoratori in generale e di quelli pubblici in particolare, e che ha creato il clima favorevole per poter svendere il patrimonio pubblico alle multinazionali angloamericane, in particolare quello del settore agroalimentare. Questo progetto è stato portato avanti dai governi Prodi, Amato, D'Alema. Questo è il senso della discesa in campo degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia e dei circoli atlantici a favore del PD, perché quest'ultimo possa portare a termine il lavoro già iniziato, svendendo loro le poche industrie pubbliche rimaste, dando loro come garanzia dei prestiti internazionali le riserve auree nazionali che sono parte cospicua della ricchezza del nostro paese, di cui gli stati sopracitati hanno grande bisogno, visto che da troppi anni continuano a stampare carta moneta che non è, che se essendo prodotta non in rapporto alle loro ricchezze nazionali, di fatto è carta straccia. Questo è il senso della distruzione dell'economia irlandese, portoghese e greca, paesi ridotti a vendere le ricchezze nazionali per pagare i soli interessi dei debiti contratti. Nell'Ottocento la Grecia hanno portato via il frontone del Partenone, adesso il Partenone glielo vogliono portare via tutto. Operazione preparata e accompagnata da una campagna di diffamazione che presenta quei popoli come pigri, indolenti, che vivono al di sopra delle loro possibilità. siamo al razzismo allo stato puro. E siccome un piano inclinato è una cosa tira l'altra, si vogliono ridurre quei paesi a condizioni di vita ottocentesche, così come ha fatto l'Inghilterra a casa sua, mettendo in preventivo rivolte e metodi per reprimerle. Noi femministe non viviamo in un limbo. Nel nostro lottare per la liberazione dalla società patriarcale dobbiamo sapere e capire lo svolgersi dei processi che avvengono intorno a noi, sapere chi porta avanti le scelte e i percorsi che abbiamo analizzato e come li conduce, magari saccheggiando lessico e modalità che sono nostro patrimonio, ci evita e ci eviterà di essere complici di questo progetto che è contro i nostri interessi, che vuol far diventare questo paese una colonia anche dal punto di vista culturale, colonizzando anche le nostre battaglie e i nostri pensieri. Come vi abbiamo accennato all'inizio, la seconda parte della trasmissione sarà dedicata a un collegamento con una compagna che ha tradotto in italiano il libro di Silvia Federici chiamato Calibano e la strega, che abbiamo il piacere di presentare domenica 20 dalle 17 al Porto Fluviale, e che sarà insomma un'occasione molto preziosa, speriamo, per tutte e tutti le compagne e i compagni. E per introdurre questo collegamento con la compagna, appunto, che si è occupata della traduzione, volevamo leggervi alcuni pezzetti dalla prefazione del libro di Silvia Federici, di cui abbiamo già parlato anche lo scorso mercoledì e insomma che penso che non abbia bisogno di presentazioni, e questa per raccontarvi che questa ricerca storica che la Federici ha iniziato molti anni fa, perché già nell'84 uscì un libro intitolato Il grande Calibano, che la Federici aveva scritto insieme a un'altra compagna che si chiama Leopoldina Fortunati, e che adesso appunto a distanza di 30 anni viene in qualche modo ripresa questa ricerca, ampliata e in qualche modo anche prende nuove direzioni dato lo sviluppo storico che nel frattempo si è avuto. All'inizio però in questa prefazione si comprendono le radici di questo lavoro, perché la Federici dice che l'interesse è motivato da un dibattito che si è animato negli Stati Uniti negli anni 70 intorno al movimento femminista, in cui si contrapponevano fondamentalmente due posizioni teoriche e politiche: da una parte le femministe radicali, dall'altra parte le femministe socialiste, e che però a parere insomma della compagna non erano esaustive nessuna delle due, perché da una parte le femministe radicali facevano risalire la discriminazione sessuale e il potere patriarcale a strutture culturali transstoriche che si presumevano indipendenti dai rapporti di produzione e di classe, dall'altra parte però le femministe socialiste riconoscevano che non si può scindere la storia delle donne dalla storia dei vari sistemi di sfruttamento, e nelle loro teorie analizzavano la discriminazione sessuale a partire dal lavoro che le donne svolgono nella società capitalistica. Ma il limite di questa posizione, dice la compagna, era di non riconoscere la sfera della riproduzione come fonte di sfruttamento e creazione di plusvalore, e quindi di attribuire l'origine della differenza di potere tra donne e uomini all'esclusione delle donne dallo sviluppo capitalistico. Un assunto che ancora una volta ci obbligava a ricorrere a schemi culturali per dar conto della sopravvivenza del sessismo nell'universo delle relazioni capitalistiche. Data, diciamo, i limiti di entrambe le teorie, la compagna avvia questa ricerca che adesso, se non si compie, insomma, segna una tappa importante con questo libro, di cui avremo modo di parlare. Proprio per questo adesso vorremmo collegarci con Luisa Vicinelli, che ha curato la traduzione, e comunque non è soltanto una femminista che ha curato la traduzione, è una femminista che ha partecipato non alla stesura del libro, perché è di Silvia Federici, però anima e corpo alla comprensione e al dibattito che in effetti suscita quello che c'è scritto. Adesso proviamo a chiamarla e a collegarci. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Pronto? Pronto? Eccoci. Sì, meno... sento. Dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo presentato alcune parti, già ne avevamo parlato la settimana scorsa e l'altra settimana ancora, comunque alcune parti di Calibano e la strega, del libro di Silvia Federici, e abbiamo detto che in effetti sei stata tu a tradurlo, e quindi ci faceva piacere parlare con te per sapere che impressioni ne hai avuto, che cosa ha significato per te, perché l'hai tradotto, cosa ti è rimasto, cosa ci sai dire, ecco. Va bene. Allora, premetto che il fatto che l'abbia tradotto è stato proprio un mio desiderio, perché ho chiamato la Silvia. Io avevo il libro, mi sembra dal 2009, l'avevo incontrata in un convegno di Michela Zucca in Matriarcato e Montagna, e mi aveva regalato questo libro, che è rimasto leggermente dormiente, ma neanche tanto, e quando l'ho letto ho pensato subito di tradurlo. Il perché è abbastanza ovvio: il libro di Silvia è un libro che manca in genere qui in Italia. Adesso non sono così esperta da dire se può essere una cosa eccezionale anche in altri paesi. Fatto sta che leggendo questo libro ho subito avuto l'impressione che andasse al punto e che affrontasse dei temi che raramente nel nostro paese vengono affrontati. Un po', diciamo, è una questione della moda dei tempi, per cui soprattutto chiaramente nei canali televisivi ed è abbastanza ovvio, ma anche con gli intellettuali si ha un po' la sensazione che un po' la gente si parli addosso, non faccia tanto il punto preciso della situazione. Invece Calibano e la strega è un libro che riaffronta una tematica, se vogliamo, che era già stata affrontata dal femminismo. Il libro sempre di Silvia Federici, che aveva scritto con Leopoldina Fortunati, si intitolava Il grande Calibano, no? Il grande quello Calibano, dell'84, esatto. Sì. Ed era comunque abbastanza non datato, perché l'analisi era precisa, puntuale, ed è ancora valida. Però con Calibano e la strega Silvia ha fatto veramente il salto. Intanto è bellissimo che qualcuno prenda a mano delle cose che ha scritto qualche anno prima e che le riveda alla luce dei tempi, perché è questo che è stato fatto. Certo, di fatto sì, è questo il nodo, oltretutto è questo qui, perché il grande Calibano è importantissimo, cioè ha indagato i ruoli, la costruzione del ruolo maschile e femminile, la transizione in questo specifico dal feudalesimo al capitalismo. Però esatto. Calibano e la strega ha allargato il discorso di molto, sì, e l'ha riportato all'attualità, certo. Certo, perché ha inserito il discorso economico un po' alla luce delle cose che sono successe, e anche parlando di economia reale, cioè facendoci vedere in una storia che, se vogliamo, è del passato, perché prende in esame i secoli della caccia alle streghe, della nascita dell'età moderna. E partendo da quella storia lì ci fa capire molto bene quello che sta succedendo oggi. Era questo che mi interessava. In più, per me c'era anche un altro interesse, perché, come forse qualcuna lì da voi sa, a me interessa studiare delle alternative, e questi studi mi hanno portato ad analizzare le società matriarcali del passato, e il libro di Silvia, che pure non parla assolutamente di queste cose, però è fatto molto bene, cioè non sembra una cosa altra, cioè è proprio uno di quei libri che ti prende un periodo, ti prende una tematica e te l'analizza fino in fondo, cioè non ti devi più documentare, non so come dire, dopo sì, che hai letto un saggio. Più che altro ti dà degli strumenti che praticamente con cui tu puoi affrontare anche altre cose, diciamo, certo, dal punto di vista femminista, intendo specificatamente femminista e anche politico, e è un approccio materialista che ti dà però appunto degli strumenti che per il femminismo dovrebbero essere molto importanti. E anche... Certo, in più sfatta questo mostro sacro, cioè questi mostri sacri, perché c'è abbastanza una critica sia di Marx che di Foucault. Anche un completamento, merito, forse, no, di questi due autori. Anch'io. Più che una critica, sai, io lo trovo un completamento. Cioè non trovo che sia una critica, penso che abbia dato un contributo che mancava. Senz'altro, però è quel contributo che manca che un po' fa capire che se non analizzi la questione da un punto di vista femminile, femminista, viene sfasata l'immagine che ne ricevi. Cioè, come sì, dire, certo, un completamento che quindi cambia in parte anche l'architettura, diciamo, di tutto il sistema che viene fuori dai due autori che hai detto, però non è proprio una contrapposizione. Cioè, per esempio, su Foucault dice sì, però ha ripreso delle intuizioni femministe, perché ponendo al centro il corpo, il pensiero femminista, aveva già individuato quella microfisica del potere, no? Senza che... Sai perché sì, ti... sì, diciamo che ci dà gli strumenti anche per poter leggere tranquillamente magari delle cose scritte da uomini, e ti con quest'ottica che lei insegna praticamente in questo libro, che dice guarda che se tu guardi questa questione, taci o non vedi queste diciamo avvenimenti storici, viene un po' sfasata anche lo strumento che ti ritrovi in mano, certo, che poi per noi donne è abbastanza importante, perché certo, è quello che ci permette di analizzare quello che impatta per noi, che certo, poi tra l'altro quello che impatta per noi, ma paradossalmente per tutta la società, perché non è che quello che spiega, che si capisce bene da questo libro della Silvia, è che le storie sono concatenate, cioè non esiste una storia di donne, una storia di uomini, una storia di un del proletariato e poi la storia delle donne di nuovo, cioè è tutto molto concatenato ed è importantissimo farsi per le lotte future, perché questo è l'intento del libro, di dare una panoramica che ti permetta poi di muoverti con cognizione di causa. Tante battaglie si fanno e non si centra l'obiettivo, diciamo. In questa rivalutazione delle lotte che sono state fatte proprio quando è nata, non è che sia nati come dato iniziale, però quando c'è stato l'attacco forte a un tipo di società che era organizzata altrimenti, beh, è importante conoscere le lotte che sono state messe in atto, dove hanno fallito, dove possiamo diciamo prendere spunto, perché come dice Silvia non c'è una storia prima e dopo la nascita del capitalismo. Il capitalismo è quello, cioè non sì, da questo punto di vista è uguale a se stesso, cioè può cambiare diciamo gli strumenti con cui arriva ad accumulare, può come spiazzare le realtà che attacca, ma gli obiettivi e la violenza e il sopruso sono sempre uguali. Tra l'altro cioè, nel libro, no, emerge anche chiaramente, lei ne fa anche una premessa proprio nella prefazione, no, del fatto che poi effettivamente, come lei ha visto con i suoi occhi in Africa alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, con le politiche della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, in realtà in queste crisi sistemiche, no, di cui una che stiamo vivendo anche adesso, quella cominciata nel 2008 e che ancora, diciamo, si sviluppa, in queste crisi vengono, rinascono, si ripropongono alla fine degli elementi genetici, cioè che lei ha studiato appunto nella transizione dal feudalesimo al capitalismo, e alla fine questo è molto importante, secondo me, anche per, ai fini della lotta e della prospettiva che uno si dà, per riconoscere questo tempo attuale come un tempo di trasformazioni, di grandi trasformazioni, il che non significa una modificazione del sistema produttivo, ma una ristrutturazione dei rapporti di forza, una trasformazione. E quindi ho trovato veramente molto interessante, e secondo me è interessante per il movimento, cioè per i movimenti tutti, poi femministi, certo, e non femministi, anche lo sguardo che lei ha sulla globalizzazione. Per certo, cui in grande scala si ripropongono con attori diversi che però interpretano lo stesso ruolo e la stessa parte, si ripropongono appunto le stesse identiche, gli stessi identici fattori, per cui dai fenomeni della recinzione dei campi, no, e quindi la nuova questione dell'agricoltura che oggi esiste, però è semplicemente traslata su un'altra scala. E quindi è importante questo libro per me anche per diciamo centrare la propria attenzione su una scala più ampia, cioè che effettivamente, guardando soltanto a quello che succede in Italia, non capiamo molto, cioè non riusciamo a... Non basta, no? Perché poi ci ricade tutto addosso a noi, nel nostro territorio, nel nostro piccolo, però per comprendere i movimenti e le linee di tendenza ormai bisogna ampliare la propria visione. Certo, e c'è anche un'altra cosa, per esempio, che ho trovato molto importante, tutto il discorso della caccia alle streghe, perché comunque ancora a tutt'oggi non è, cioè è un argomento più che studiato, è un argomento archiviato. Tra l'altro, mentre proprio stavo traducendo il libro, sono venuta a Roma, c'era un incontro sull'economia del dono e c'era una relatrice che veniva dal Sudafrica, e parlando mi sono resa conto che lei era a conoscenza di episodi proprio di caccia alle streghe come c'erano state allora, e mi sono avvicinata e ho detto com'è questa cosa, come sta succedendo, come la vedi? Lei dice: ma sai, sono delle cose superstiziose, noi ancora abbiamo delle aree che non come dire, che non sono non evolute alla modernità, sì. E le ho detto: guarda che non è esattamente così, cioè, siccome è già successo, siccome da noi è già successo, e siccome è un libro che uscirà a breve, le ho dato la bibliografia proprio perché lei aveva già la tendenza a ripetere la stessa dinamica, lo stesso errore. Certo, perché l'egemonia culturale che ci domina ha degli stereotipi a cui una poi finisce sempre per fare riferimento. Sì, perché richiede molta fatica stare attenti e uscire, sì. E trovare una, diciamo, una lettura altra. E per questo che il libro della Silvia è stato, diciamo, fondamentale, perché ha come dato una scossa al discorso, perché si ricentrasse in cose che magari sappiamo, abbiamo sentito, abbiamo immaginato, però strutturato come l'ha fatto lei, con guardando tutti gli aspetti di questi fenomeni che sono successi, facendo questi paragoni a quello che sta succedendo oggi, ti aiuta meglio proprio a capire qual è la posta in gioco anche questa volta, insomma. Certo. Senti, noi siamo in chiusura, abbiamo terminato la nostra ora. A proposito di questo che stavi dicendo adesso ultimamente, ti voglio raccontare proprio una cosa che ci ha detto Silvia nell'intervista che gli abbiamo fatto in trasmissione, perché noi stavamo parlando delle streghe, della caccia alle streghe. A un certo punto io ho detto, dico sì, perché le femministe hanno rivendicato la strega, cioè hanno rivendicato il fatto di ribellarsi, il fatto di essere donne che si ribellano, donne fuori dalla donna, eccetera eccetera. E lei mi ha detto, no, guarda che io vorrei togliere anche questo stereotipo alle streghe, perché le streghe in effetti non erano donne che si ribellavano, erano donne e basta. Per cui esatto. E avevano, cioè, la ristrutturazione delle donne è passata attraverso la demonizzazione delle donne che magari facevano delle cose, però erano donne e basta. Cioè, l'oppressione che ti definisce come ribelle, esatto, non sei tu, esatto, che ti e questo te la dice lunga come, cioè, come ci voglia attenzione e come ci vogliono poi degli intellettuali seri che fanno questa ricerca così con passione, fanno dei libri ancora esaustivi, certo, di forma, di argomento, perché effettivamente almeno per me è sempre più difficile trovarne. Infatti l'ho tradotto volentierissimo appena ho potuto, perché proprio pensavo che fosse utile, ecco. Va bene, ti ringraziamo. Oltre che bello. Ti ringraziamo tantissimo, perché abbiamo finito il nostro tempo. Grazie del tuo intervento, e comunque noi ci vediamo qui a Roma fra pochissimo, e così approfittiamo per ribadire l'appuntamento domenica 20 al Porto Fluviale alle ore 17, quindi ci sarai anche tu. Un grande abbraccio, sì, da tutte. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. E prima di chiudere vi ricordiamo ovviamente che la radio non campa d'aria, assolutamente no, proprio perché non ha padroni e padroncini, quindi mi raccomando, sostenete la radio con il conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. Per tutte le altre modalità di finanziamento potete andare sul sito di Radio Onda Rossa e trovare le varie iniziative e le varie modalità, e invitiamo tutti quanti a sostenerci, perché la libertà ha un prezzo. E non campa d'aria neanche la libertà. Ci vediamo domenica con tutti e tutte.